Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La storia di oggi è un omaggio a una donna di spettacolo, a un grande talento della televisione, del teatro italiano, una donna che ci ha lasciato molto prematuramente qualche tempo fa. È una di quelle persone della TV che hanno la capacità naturale di farsi percepire come una di famiglia e peraltro è anche la storia esemplare nella sua tragicità di una donna che negli ultimi anni ha rappresentato un esempio di come si affronta una malattia e di come si deve continuare a essere se stessi nonostante il dolore. Quella che raccontiamo oggi è la storia di Anna Marchesini. Buonasera. Siccome che sono ciecata, non riesco a vedere se c'è qualcuno in sala oppure no. E volevo raccontare la mia storia. Punto. Quello che avete sentito è uno dei mille personaggi inventati da Anna Marchesini, forse uno dei più popolari, uno dei più amati dal pubblico, la signora, anzi signorina Carlo, quella del tormentone siccome che sono ciecata. È la Marchesini del successo televisivo, degli spettacoli con il trio, assieme a Massimo Lopez, a Tullio Solenghi, gli anni di Domenica Inn, dei festival di Sanremo, della versione satirica dei Promessi Sposi. È una storia televisiva nota a tantissimi che non esaurisce la storia di una donna il cui volo è stato pieno di colpi d'ala e noi che parliamo sempre di colpi d'ala, lei ha volato anche nel momento in cui una malattia grave le ha proprio tarpato le ali dal punto di vista fisico. Lei non si è fermata, ci ha mostrato una forza interiore commovente, ma partiamo dall'inizio. Sono nata a Orvieto. Orvieto, una parola che milioni di persone muoiono senza aver mai pronunciato, anzi vivendo lo stesso, ma benissimo poi. Dunque, per la maggior parte del mondo, ma anche solo degli italiani, Orvieto non esiste, o comunque non fa nessuna differenza. È un po' la sfiga tipica dell'Umbria che tutti dicono che c'è nato San Francesco, Jacopone, che comunque sono nati ad Assisi e a Todi. Ma Orvieto? Io non ho mai conosciuto una persona che non abbia strizzato gli occhi alla ricerca disperata di dove cavolo potesse collocarsi questa mia città d'origine. Orvieto? Quando mi presentavo. Così scriveva Anna Marchesini sulle sue origini provinciali, sulla sua Orvieto, dove nasce il 18 novembre del 53. E come tanti italiani che nascono lontano dalle grandi città, Anna vive questo rapporto duplice con questa sua anima di provincia, con la sua piccola città da cui scappare per avere più possibilità, ma senza perdere gli insegnamenti di quello stile di vita. La provincia, quando se ne può scappare, è una, secondo me, è un grande uovo dove nascere e dove anche crescere con tanti tempi in più rispetto alla città, con tempo a disposizione per pensare e anche forse con una possibilità di differenziarsi l'uno dall'altro rispetto a una città che così per definizione forse massifica un pochino di più, lascia meno tempo, nevrotizza di più, eccetera. Sono venuta via perché chiaramente le possibilità che offre una città di provincia sono inferiori per aspirazioni e sogni e desideri, però insomma nascere in provincia ha secondo me, insomma, dei grandissimi vantaggi. Un'infanzia come tante altre, quella di Anna Orvieto, dalla prima elementare va direttamente in terza con un esame da privatista al quale la prepara la madre maestra e che per lei rappresenta subito un ricordo di quelli formativi, ce lo racconta lei stessa. Mi ricordo una volta all'esame, io ho fatto la prima elementare, poi a settembre della prima elementare ho fatto gli esami per andare in terza, per andare con mia sorella, e mi ricordo che la mamma, che era maestra, mi aveva preparato, e mi ricordo questa giornata che ha segnato veramente un confine nella mia vita. Mi ricordo questa giornata caldissima di fine agosto in cui io e il maestro Ardizzone, che non è un personaggio di The Amicis, era proprio un maestro, mi interrogava per farmi dare gli esami dalla prima alla terza, la matematica, le tabelline, e poi 5 più 2, 6 più 4, 7 più 3. A un certo punto, in questo caldo, in questa aula desolata, deserta, scuola grandissima, silenziosissima, vedo aprire la porta, era la mia mamma. Ho detto, adesso mi salva. Mi giro verso di lei guarda il maestro tutt'uno. No, Zaira, io ho chiesto tutto, cioè Anna è preparatissima. Poi quando sono andata a casa ho detto, ma mamma, ma perché gli hai detto di chiedermi ancora? Non volevo che si dicesse che fossero dei favoritismi, perché, ma che dicesse chi? Che l'aula era vuota, la scuola era deserta, non lo sapeva nessuno di quell'esame e non l'avrebbe saputo nessuno. E da lì ho capito che la buona volontà non è sufficiente. E poi il liceo classico, Orvieto, si laurea a 22 anni all'Università di Roma in psicologia, un'altra sua grande passione, è una passione che verrà usata per creare i suoi personaggi. A lei piace studiare. Nel 76 decide di provare a entrare all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Non ce la farà al primo tentativo, ma è l'inizio di una storia d'amore per questa scuola e per un mestiere che la costruisce. È stato il mio sogno entrare. Da allieva sono stata bocciata 2 volte prima di essere ammessa. Certe volte entravo nella scuola, salivo l'ascensore fino al 5° piano. La sede era allora in via Quattro Fontane, nel palazzo di una marchesa. Salivo in paradiso solo per sentire l'odore, attraversare un corridoio, fare una domanda, solo per stare lì. L'Accademia per me è uno dei posti più evocativi, come dicono i poeti. Adesso si trova a Piazza Verdi, non lontano da casa mia. Ogni volta che ci entro, cerco il mio professore. Lorenzo Salvetti, che oggi è direttore. Lo stringo, lo guardo. Solo lui conosce quello che provo. Quanto amo quella scuola! Anche se ora mi chiamano maestra, io sono un'allieva della scuola d'arte drammatica Silvio D'Amico. Amo anche la parola accademia. Il falco e il gabbiano. Così Anna Marchesini, la nostra protagonista di oggi, scopre la passione per il teatro ed è una passione che prima la porterà all'Accademia di Arte Drammatica Silvio D'Amico e poi al grande successo. Un giorno d'estate, sempre d'estate mettiamo le nostre passioni, nel terrazzino della casa dei miei genitori, mezzo proprio al profumo dei gerani, mezzo al silenzio, sento dalla radiolina, mi faceva compagnia, che erano aperte le iscrizioni all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Madonna, già Accademia d'arte drammatica, cioè già questa parola, io poi ho un amore per proprio frequentare le scuole, insomma una secchiona, diciamo così. E quindi ho cominciato a infilarsi dentro questa passione per fare la scuola e poi naturalmente è arrivato col palcoscenico, il teatro, e si è infilato dentro questo bacino tutte quelle passioni che erano sempre state essere qualcun'altra da me, e poi la passione per le vite degli altri, e poi convertire, raccontare, poi la letteratura, e poi la parola, e poi il teatro, e poi la gente, e poi il buio, e poi così sono arrivata. E calca per la prima volta le assi di un palcoscenico quando ancora sta studiando all'Accademia. È una rappresentazione delle cosiddette estive, gli spettacoli che si tengono tra un anno in corso e l'altro. Si esordisce con Molière, il 76, il Borghese Gentiluomo. Così ogni estate va in scena con una pièce sotto la regia di un suo insegnante, Lorenzo Salvetti. Poi nel 79 si diploma come attrice di prosa, comincia subito a lavorare e il talento è evidente, è cristallino. Lei viene ingaggiata nella compagnia teatrale del Piccolo di Milano, il teatro con la T maiuscola. Nell'82 uno dei due incontri che professionalmente le cambieranno la vita. Oltre al teatro prova la radio in Svizzera, lavora assieme a un altro attore di belle speranze. Si chiama Tullio Solenghi, viene da Genova e intanto, come molti colleghi attori, è impegnata lei intensamente nell'attività di doppiaggio, un campo che sarà una costante per tutta la sua carriera. Tanti cartoni animati negli anni 80, ma Anna è anche la voce della star americana Judy Garland nell'80 e Dorothy in una versione restaurata del Mago di Oz. Cosa volete fare al mio cane? Ridatemelo subito! Non devi avere fretta, piccolina, abbiamo tanto tempo. Oh, vi prego, ridatemi il mio cane! Sicuro, sicuro. Quando mi avrai consegnato le scarpette? Ma la buona fata del nord mi ha detto di no! E va bene. Getta quel cane nel fiume e annegalo! No! No! Ecco, prendetevi le scarpette, ma salvate Totò! E questo doppiaggio, un cartone animato molto famoso per i ragazzi degli anni 80, sarà un doppiaggio galeotto per il secondo incontro cruciale di Anna, perché il cartone Supercar Gattiger, in sala di registrazione con lei c'è un giovane di origini napoletane trapiantato a Roma, si chiama Massimo Lopez. E con Lopez e Solenghi parte questa avventura, un trio che esordisce su Radio 2 col programma Elsa Poppin e poi in televisione grazie a Enzo Trapani, che li vede in una videocassetta e li sceglie per affiancare Pippo Franco nella conduzione di Tasto Matto. A Tasto Matto nasce molto del repertorio del trio, dalle parodie dei telegiornali a quelle della pubblicità. Ehi, morbido questo golfino, è nuovo? Sì. Ah. L'hai lavato con... No. Ah, perché siccome dovevo passare parola... E per Anna nell'85 c'è anche il tempo di girare un film diretto e interpretato da Montesano, il titolo è A me mi piace. Poi arriva Domenica In, 40 puntate di una Domenica In mitica, quella condotta da Mino D'Amato con Elisabetta Gardini. Il trio conquista il pubblico in modo travolgente, perché quell'anno Anna, Massimo e Tullio fanno veramente incetta di gratificazioni e di premi, vincono il premio appunto Rivelazione dell'anno, e l'onda di questo successo li porta l'anno dopo a Fantastico 7, la trasmissione di punta dell'ammiraglia Rai 1. È un'edizione che rimarrà nella storia proprio per merito, per colpa del trio e di una famosa imitazione che provocò una crisi internazionale tra l'Italia e l'Iran della Ayatollah Khomeini. Siamo nel novembre dell'86. Una settimana prima Grillo aveva fatto arrabbiare Craxi con la famosa battuta sui socialisti ladri, diciamo. A Fantastico 7 Pippo Baudo manda in onda una gag in cui il trio scherza sullo scandalo Irangate, la vendita segreta di armi all'Iran da parte di un colonnello degli Stati Uniti. Nella gag Khomeini, interpretato da Solenghi, si lamenta con Reagan, Massimo Lopez, della cattiva qualità delle armi con missili che sembrano caffettiere. Anna Marchesini impersona la madre dell'Ayatollah, la Sora Khomeini. L'Iran ovviamente non la prende bene, perché da quelle parti il senso dell'umorismo non è molto radicato. Chiama indietro l'ambasciatore, chiude le rotte aeree con l'Italia, caccia dei diplomatici, in scena proteste e disordini davanti all'ambasciata italiana a Teheran. E meno male che non c'era ancora l'ISIS. Seguono mesi di trattative diplomatiche, la RAI promette di fare sparire il filmato dello sketch, è una promessa che hanno mantenuto, e provate a cercare in rete quel video, è introvabile. Ma alla Marchesina e ai colleghi lo scandalo non crea problemi, anzi, hanno una notorietà internazionale, ne scrive la rivista americana Variety, il trio ottiene spettacoli a New York, a Buenos Aires, insomma per Anna, Massimo e Tullio è un momento incredibile, lo saranno anche gli anni a seguire. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando il bellissimo volo di Anna Marchesini, un'attrice, una showgirl, una donna di grande intelligenza, ironia, carisma, e la storia del suo successo travolgente con il trio, con Lopez e Solenghi, ma anche stiamo parlando di una vicenda umana, di una forza interiore messa alla prova da una malattia, l'artrite reumatoide, che le hanno diagnosticato molti anni fa e che l'ha fatta diventare, giustamente per il pubblico, il simbolo della serenità di fronte al dolore. Però è un dolore che nella seconda metà degli anni Ottanta ancora non si è mostrato. Al contrario, lei sta vivendo il momento d'oro del trio e la consacrazione televisiva arriva con la partecipazione in 3 edizioni al Festival di Sanremo, con questi interventi come guastatori comici chiamati a rompere lo schema atavico, un po' consolidato e imbalsamato del festival. Mettono al centro del loro mirino tutti, come ad esempio un altro trio in ascesa, quello delle sorelle Carlucci. Grazie, siamo felici. Grazie. Grazie. Noi siamo felicissimi di essere qui a Sanremo. Siamo venute qui a Sanremo molto volentieri, anche pur anche se volessimo presentare il festival, però il patrono Ragozzini ci ha detto che quest'anno il festival non lo presenta nessuno e quindi abbiamo dovuto rinunciare, grazie. Il trio diventa il centro della comicità italiana. Essere imitati da loro voleva dire un imprimatur di successo. E io mi ricordo con gioia quando Marchesini, Solenghi e Lopez imitarono il trio Morandi, Ruggeri, Tozzi. Insomma, fu un momento che puntellò ulteriormente il successo di quel trio. Dall'esterno sembra che il ruolo centrale nell'equilibrio dei tre sia proprio quello di Anna, perché è la prima donna, è quella capace di far scattare il meccanismo della risata anche solo con un'espressione del volto, con una frase. In realtà loro tre erano perfetti assieme, perché avevano una suddivisione di ruoli e un affiatamento che raramente si è visto in gruppi di comici con questa efficacia. Comunque loro tornano naturalmente anche in teatro e realizzano spettacoli molto originali, baciati ovviamente dal successo, come Allacciare le cinture di sicurezza, come In principio era il trio, dall'87 al 91 la vetta della loro popolarità arriva con La dissacrazione meravigliosa, irriverente, spassosa dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Nasce uno sceneggiato vero e proprio, 5 puntate in onda su Rai 1 con un ascolto di 13 milioni, picchi di 17 milioni di telespettatori, insomma è il punto più alto del loro successo. Adesso io gli voglio fare un esempio, dico una cosa, mettiamo a me che me frega di dire che Don Rodrigo ha mannato staglio e olio a dia sto disgraziato che l'ammazza si destosa, ma io me posso inocecarmi se dico i fatti dell'altri, manco se mi ammazzano, manco, e questo ve lo giuro, se mi dicono di non dirle, perché guardi, tra ieri e oggi, so appurato, mi ha fatto una testa tanto, e dimmi di non dirvelo, e io non nomino Don Rodrigo, manco se mi ammazzano, zitta, muta come un pesce, allò, chi è? Ma non c'è solo il successo in quel periodo per Anna, perché a casa di Lopez, durante una serata tra amici, lei conosce un giovane attore. Si chiama Pasquale Valente, alle prime armi, in arte, Pachi, lui ha 6 anni meno di lei, ma soprattutto lei è una star del panorama italiano, mentre lui è ancora un ragazzo in cerca di una grande occasione. Ma tant'è, è un colpo di fulmine, loro si sposano a Parigi nel 91 e sono convinti che il sentimento potesse essere in grado di superare le distanze tra loro. Probabilmente non avevano fatto i conti sul fatto che il mondo dello spettacolo in questi casi è molto cattivo, ti perdona tutto tranne che il successo. Quindi la storia si preannuncia come complicata, perché lui viene subito etichettato come il principe consorte, quello che vive all'ombra di una donna famosa. Nel 92 nasce la loro unica figlia Virginia e secondo lui lei si dedica completamente alla bambina. Insomma, le nascite dei figli in genere sono quasi sempre una picozzata sulla coppia, e sta di fatto che dopo 4 anni di matrimonio nel 95 e i due si separano consensualmente. Però la separazione avrà un seguito un po' spiacevole, perché l'ex marito farà dichiarazioni ai giornali un po' avventate, pretenderà un assegno di mantenimento, si lamenterà di non riuscire a vedere la figlia come vorrebbe. Insomma, spesso le separazioni lasciano dietro questa scia non bella. Nel 99 arriva il divorzio dopo una bella battaglia giudiziaria, e anche questa con strascichi dolorosi. E nel 94 arriva la fine del trio. Non è una rottura ufficiale, è più un tentativo di percorrere strade diverse. Dicono che sia stato Massimo Lopez il primo a volere provare esperienze da solista, tanto che Anna e Tullio lavorano ancora come coppia per altri 3 anni, fino al 97, poi lei prosegue da sola ancora in televisione. E i suoi personaggi indimenticabili arrivano a Quelli che il calcio e poi al Sanremo di Fabio Fazio. Lei interpreta per esempio la Lollobrigida, poi fa una imitazione parodiata di Rita Levi Montalcini, poi veste i panni di, vi ricordate quella sessuologa imbarazzata che non riesce a dire neanche il nome scientifico degli organi sessuali? Quando un uomo e una donna fanno insieme, ma anche separatamente, ridai che ti ridai. A forza di chiamare, l'uomo viene, ma anche la donna, no? Ma comunque sempre prima l'uomo, viene, dicevamo, sotto forma di un, anche visibile, sì. Elemento vischioso, sì, detto che anche fa bene alla pelle, scientificamente chiamato quello lì. E le sue partecipazioni al Festival di Sanremo proseguiranno, però la carriera di Anna diventa comunque sempre un ritorno alle origini, cioè al teatro, al confronto col pubblico, che è quello che lei ama di più. Nel 2000 esce un suo libro dal titolo Che siccome che sono ceccata, ed esce un video di 85 minuti per la collana dei mostri della comicità. Poi torna in sala di doppiaggio, è un cartoon della Disney, Le follie dell'imperatore. Gli anni a seguire sono però soprattutto teatro, con dei monologhi comici come Le due zittelle di Tommaso Pandolfi. E poi nel 2006 lei è in giro per le numerosissime repliche dello spettacolo, arriva uno stop improvviso, la tournée che viene annullata, la malattia che si presenta sotto forma di un attacco violento, è l'artrite reumatoide, in una forma rara e molto dolorosa. Il dolore è un luogo di verità. Nel dolore sei nudo. Puoi usare strumenti per coprirlo, ma è un viaggio necessario. Più hai il coraggio di affrontarlo, meno paure hai. Io non ne ho più, compresa quella di morire. A volte non ho più neanche quella di soffrire, e non solo perché sono allenata. Nel dolore non cerco il senso, ma trovo che in esso, anche nel mio, ci sia una strepitosa quantità di vita. La mia conoscenza personale con Anna Marchesini è stata sporadica, molto piacevole. L'ho sempre trovata una donna di grande intensità, ma naturalmente ho bisogno di qualcuno che la conosca molto, ma molto meglio di me. E quindi ho con noi Massimo Lopez. Buongiorno Massimo. Buongiorno carissimo. Come sai, insomma, stiamo parlando della tua amica Anna Marchesini, e io innanzitutto vorrei chiederti qual era il suo ruolo proprio tecnicamente nelle dinamiche del trio, e anche non tanto tecnicamente, qual era l'equilibrio tra i vostri tre caratteri. L'equilibrio che c'è stato era un equilibrio, noi abbiamo sempre detto di noi tre di avere un rapporto magico, un'alchimia tra di noi. Siamo stati scientifici nella scrittura delle cose che abbiamo fatto. Le abbiamo scritte sempre impegnandoci tantissimo, ma ore e ore, giornate intere. Io scherzando racconto che a casa mia il divano ha ancora le forme di noi tre, perché stavamo dalla mattina alla sera per preparare sketch televisivi. Che uno dice, ma voi eravate, ma non eravate così anche all'impronta, così... L'impronta veniva a casa, nel senso che noi inventavamo le cose di getto, però la maniacalità che avevamo e che Anna ci ha insegnato ad avere, perché lei ha avuto sempre questa maniacalità, con l'accezione positiva insomma del termine, maniacalità nel senso che non si accontentava di una soluzione che potesse farci ridere a noi tre, perché eravamo molto severi con noi stessi e dicevamo, ma questa cosa funziona, sì dai, sì funziona, falla così che così va bene, bella questa cosa che stai inventando, potresti aggiungerci questa, si diceva questo potrebbe, ecco, con questo elemento in più può andare ancora meglio, e subentrava Tullio e diceva no, ma forse mettiamoci quest'altra cosa, e Anna diceva ma forse potremmo cancellare tutto e rifarla in quest'altro modo addirittura, quindi al massacro. Beh, l'improvvisazione scientificizzata è la migliore, devo dire, no? Esattamente. Dunque voi, diciamo, per usare un linguaggio sportivo, dopo esservi ritirati imbattuti, cioè vincitori su tutti, tornate in televisione in un programma che si chiama Non esiste più, la mezza stagione, nel 2008, 25 anni diciamo dalla partenza, dalla nascita. Lì, come dire, Anna aveva già i primi segnali. Ecco, cosa ricordi di quello spettacolo? Cioè, c'era ancora tutto? Un grandissimo affetto, perché questo affetto non è mai venuto a mancare, perché noi abbiamo continuato a essere trio e a sentirci anche durante il periodo in cui non eravamo in pubblico. Certo. Quella trasmissione è nata con l'intento di ritrovarci realmente, certo, di trovare noi, di far conoscere noi stessi alle generazioni successive. E poi c'era anche l'intento di continuare con un progetto che avevamo in mente, certo. E noi volevamo fare l'Odissea. E già sto sorridendo perché me la immagino un po' una vostra. Sì, beh, c'era il cane Argo, per esempio ero io potevo essere anche Penelope. Poi c'era, vabbè, ma insomma ce n'erano talmente tanti di situazioni, certo. Soltanto che poi non si è riuscito a fare questo per vari motivi, non ultimi anche i motivi, certo. dei tempi moderni che non permettono spese, insomma, investimenti così grossi. Certo, senti, in una società come quella come la nostra, e soprattutto nel mondo dello spettacolo come quello che conosciamo, è raro imbattersi in una donna come Anna che a un certo punto si incontra il dolore e incontra, ahimè, questa parabola di cui sappiamo l'epilogo, e in qualche modo riesce a comunicare un messaggio importantissimo a tutti, cioè la sua forza d'animo, il suo sorriso che non è solo sdrammatizzare ma è anche cominciare a guardare in faccia il proprio percorso. E voi parlavate di questo, cioè di come questo la condizionasse, ma la rendesse anche come dire, una donna ancora più grande. Noi ne parlavamo, però con me ne parlava in termini quasi ironici. Se io dovessi pubblicare i messaggi WhatsApp che ci scrivevamo tutti i giorni fino al mese prima che lei venisse a mancare, viene fuori una cosa esilarante, cioè si continuava a ridere nonostante la sua patologia, che lei stessa riusciva a prendere in giro dando a noi un esempio di straordinaria forza. Massimo, ti ringrazio infinitamente perché ci hai dato veramente un quadro bellissimo del quale avevamo bisogno. Grazie Massimo. Grazie a voi, grazie a te. Ciao, ciao. Anna Marchesini torna in TV dal suo amico Fabio Fazio. A che tempo che fa? Prima del 2013 per presentare il suo libro Moscerine, poi torna l'anno dopo per annunciare che un racconto tratto proprio da quel lavoro sarebbe diventato uno spettacolo teatrale. Però è evidentemente provata dalla malattia, la sua ironia, la sua profondità di pensiero sono comunque integre nel pubblico, la commozione è palpabile perché lei parla di lavoro, parla di vita, ma parla anche della morte, però sempre a modo suo, con leggerezza, con ironia. Invece io ti garantisco, io vi garantisco, io ve lo giuro, che sono così interessata, appiccicata, morbosamente ghiotta e obesa di vita proprio. Sono così interessata della vita che mi interessa pure la morte. Gli amici e le persone a lei più vicine sono concordi nel dire che l'ultimo regalo per Anna Marchesini è stato quello di poter vedere la figlia Virginia laurearsi. 10 giorni dopo, il 26 luglio 2016, Anna muore nell'ospedale della sua Orvieto. E ci sono vite come quella di Anna Marchesini che riescono a essere meravigliose anche quando una malattia cerca di impedirti di volare, ma il pensiero e l'anima non si possono fermare, e così si può arrivare in alto, ci si può liberare, ma si può anche lasciare un segno nella memoria, nel cuore della gente, ci si può divertire e si può fare anche una vita così utile agli altri, per tutti e da tutti i punti di vista. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, ricordatevi che c'è il nostro podcast per riascoltare o ascoltare delle storie che magari vi siete persi per strada, e sappiate che nei miei e nei nostri social mi trovate sempre. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.